La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qui, tutti all'ascolto, voi, tutti qui davanti al microfono, noi, per parlarvi di cinema. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea, l'ultima puntata di questo 2013, che segue la puntata speciale del giorno di Natale. Ci avete seguito in tanti, ma anticipa, ve lo dico subito, anche la puntata speciale del giorno di Capodanno, 1 gennaio, ore 17, tutti i film del 2014, magari proprio non tutti, però insomma molti, con clip, trailer, con suggestioni audio per farvi già il palato su cosa vi aspetterà in questo anno nuovo che sta per arrivare. Vi ricordo anche già sin d'ora la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24, cliccate mi piace e unitevi alla nostra comunità. Ebbene, allora, il primo gennaio è una data che, oltre a contrassegnare storicamente l'inizio dell'anno nuovo, è anche una data in cui quest'anno i distributori si sono accorti che si possono far uscire molti film. Sarà così con ben 6 nuove pellicole quest'anno, è un record per quanto riguarda le uscite in data 1 gennaio. Noi le abbiamo divise di 3, vi parleremo approfonditamente oggi, delle altre 3 nella puntata del 4 gennaio, perché lì invece non esce praticamente niente, quindi questo è un po' la suddivisione. Vogliamo cominciare con l'animazione regina di questo periodo, perché torna sugli schermi italiani un brand, quello di Piovono Polpette, che aveva convinto già con la prima uscita, e adesso arriva il sequel, La Rivincita degli Avanzi. Ne parliamo fra poco con Boris Sollazzo, prima sentiamo questa clip. Flint! Sam, buone notizie! Torno a suolo marinata per distruggere il Fantasmurfer che crea cibo mostri mortali che vogliono imparare a nuotare per attaccare il mondo! Vengo con te! Cosa? Aspetta! Sam, sarà mortalmente pericoloso con probabilità di morte! Ed è per questo che ci serve aiuto! Se tu torni a casa ci vengo anch'io! Viaggeremo fino all'isola usando il mio consegna domiciliatore! Precedimi, prode assistente! Panico! Funziona! Piovono Polpette 2, La Rivincita degli Avanzi. C'è anche la cucina degli Avanzi, che è ottima, tra l'altro. Ma adesso parliamo di Rivincite. Il film è firmato e cofirmato da Cody Cameron e Chris Purm. Allora, Boris Sollazzo è con noi. Ciao Boris, ben ritrovato. Ben ritrovati. Allora, è un film che, come aveva già fatto il primo, riesce a, passatemi il verbo, tritare, visto che parliamo di cucina, tematiche molto molto spesse e renderle commestibili a un pubblico che va appunto dai bambini, dai ragazzini agli adulti, però con un impegno, fra virgolette, politico, che è quello sulla questione alimentare, che è centrale per la nostra società, sulla questione delle sofisticazioni, ad esempio, che è un tema, insomma, molto molto importante. Ecco, è vero che l'animazione spesso racconta l'uomo in una chiave che riesce ad arrivare a un pubblico molto ampio, però non così spesso ne racconta le scelte politiche, soprattutto quelle sulle quali il dibattito, e soprattutto con le multinazionali, è molto aperto. Beh, intanto, essendo uscito il 25 dicembre, io penso a chi lo ha visto il giorno dopo il cenone di Natale, avrà avuto gli incubi per ore probabilmente. Detto questo, sono d'accordo con te, è come se le finalità di un documentario come Super Size Me finissero in un'animazione che non rinuncia però alle sue storie sentimentali, alle sue dinamiche comiche, grottesche, ai suoi eroi sfortunati, perché qui parliamo di un nerd che ha creato un mondo a parte, che è quello dei cibi fin troppo sofisticati, e non parliamo di Noël Cuisine, ma proprio di sofisticazione alimentare, come dicevi tu, e in qualche modo tutto questo fa sì che si racconti un tema altissimo come quello del consumismo, da una parte perché sono tutti cibi grassi, tutti i cibi moderni in qualche modo, tutti i cibi che hanno vissuto un'ibridazione con in questo caso anche con animali, e dall'altra parte però c'è anche tutto il divertimento, l'intrattenimento che non può non far ridere e a crepapelle bambini ed adulti, perché qui l'umorismo, come in Piovono Polpette il primo capitolo, e forse questa è l'unica cosa che li unisce, perché poi i due film secondo me vanno in due direzioni opposte, c'è un umorismo audace, al limite del politicamente scorretto, e con una voglia di andare laddove pochi vanno. A questo bisogna aggiungere, tra l'altro, secondo me, un apparato visivo che non è niente male. se nelle scene normali non c'è nulla di speciale, in alcuni in altre, come quelle dell'inventore, il cattivo di turno, c'è quasi un immaginario lisergico, e negli altri c'è un immaginario mostruoso, organizzato proprio attraverso la divisione ipotetica tra buoni e cattivi, che tale non sarà, tra umani e cibi, che va a pescare laddove l'animazione politicamente corretta odierna spesso non va, va un po' nel passato. Quindi devo dire, un film che a me ha divertito moltissimo e che, se poi ci si sta un po' a pensare, non è affatto stupido, anzi. E allora, questa la parentesi dedicata a Piovono Polpette 2, la rivincita degli avanzi. Allora, noi invece, a proposito di vincite e non di rivincite, giochiamo insieme, perché anche questa settimana dobbiamo farvi ascoltare un paio di clip di un film misterioso, fino a quando qualcuno di voi, almeno i primi due, non lo indovineranno e non vinceranno il Blu-ray di questo film. Era un'annata favolosa. Il Vello d'Oro può guarire qualsiasi cosa o persona vivente, incluso l'albero d'Italia. Guarendo l'albero, ripristineremo la barriera intorno al campo. Mi sorprende che tu la sostenga, signor Underwear. Underwood. È lo stesso. E allora, la rosa purpurea @radio24.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci il titolo completo di questo film, quindi titolo e tutto quello che ne segue. E adesso per il momento non vi dico di più. La rosa purpurea @radio24.it, ve l'ho già detto, indirizzo, titolo, per provare a vincere una copia in Blu-ray di questo film, per i primi due ascoltatori che indovineranno. Più tardi avremo un'altra clip. Parliamo adesso di The Butler, un'altra proposta di questa settimana, in realtà in sala dal 1 gennaio, mentre Piovono Polpette 2 è già nei nostri cinema dal giorno di Natale. Ha avuto ottime recensioni The Butler, un film che racconta la storia di un maggiordomo, del maggiordomo della Casa Bianca, Cecil Gaines, che, come dire, entra e ci fa entrare con lui dentro questo meccanismo perfettamente sofisticato, che è appunto tutto il cerimoniale della Casa Bianca. Era successo un paio di stagioni fa con un film francese, lo ricorderete, La cuoca del presidente, che invece raccontava il ruolo di questa cuoca al servizio del presidente François Mitterrand in Francia. Beh, qui siamo un po' dalle stesse parti, il personaggio è quello del maggiordomo. Noi sentiamo questa bellissima clip che racconta il momento del primo colloquio e poi ne parliamo insieme a Boris Sollazzo. Lei si interessa di politica? No, signore. Bene, perché non tolleriamo opinioni politiche qui alla Casa Bianca? Di solito assumo io i maggiordomi. Mi perdoni se dico questo, signor Fellows. A me non piacerebbe essere assunto per circostanze che potrebbero metterla a disagio, mi creda. Davvero? A lei servono uomini scelti personalmente, persone di suo gradimento che soddisfino la sua visione del personale della Casa Bianca. Oh sì, sarei un buon negro di casa. E allora questo è il momento appunto del primo contatto. Dirige Lee Daniels, cast all black potremmo dire, con Forest Whitaker protagonista, Oprah Winfrey, Mariah Carey, Cuba Gooding Jr., ma anche le presenze di John Cusack e di Jane Fonda. Boris, un personaggio, quello del maggiordomo, e anzi a questo proposito voglio già dirvi di tenere pronti i polpastrelli al vostro numero di telefono per gli SMS 349-238-6666, perché dopo che ne abbiamo parlato con Boris arriverà per voi una domanda per provare a vincere 10 biglietti per andare a vedere al cinema The Butler, quindi 5 coppie da 2 biglietti, quindi pronti col telefono, già potete scrivere il nostro 349-238-6666 perché fra poco arriva la domanda per farvi vincere. Allora, dicevamo, Boris, film che ha il fascino di ripercorrere un ruolo che spesso rimane sullo sfondo e invece attraverso i cui occhi noi capiamo i meccanismi più grandi che governano un ambiente come quello della Casa Bianca, forse in maniera un filino troppo laccata. Decisamente sì, ci sono due anime completamente contrastanti in The Butler. Da una parte quella quasi, come dire, sottotono, sottotraccia del vero Eugene Allen, che è stato 34 anni alla Casa Bianca a servire, dall'altra quella melodrammatica, eccessiva, molto retorica di Lee Daniels, che continua come stile etico, estetico, formale sulla linea di Precious e dei suoi film precedenti. Questo fa sì che si apprezza sì la grande prestazione sia di Forest Whitaker sia di Oprah Winfrey, oltre che di tutto il resto del cast che tu raccontavi, ma dall'altra si sente sempre di stare in una sorta di storia in pillole raccontata da un lato che la vuole sempre rendere al limite tra il melodrammatico e il grottesco, e così anche momenti importanti come per esempio il rapporto di Forest Whitaker col figlio, che a sua differenza ha delle posizioni politiche molto forti, sta accanto a Malcolm X, a Martin Luther King, vengano svilite soprattutto nel momento drammatico in cui Eugene Allen, barra Cecil in questo caso, lo ripudia. Poi ci sarà, e la storia questo ce lo racconta, ci sarà un riavvicinamento tra i due grazie alla campagna elettorale di Barack Obama. Butler, il The Butler se ne andrà, il maggiordomo se ne andrà e deciderà di fare politica in prima persona. Quindi una questione così importante come la segregazione razziale secondo me diventa un po' una trattazione da soppopera. Dall'altra parte però abbiamo degli attori straordinari che in qualche modo nobilitano il film. Ricordiamo film che ha incassato in America per il momento 120 milioni di dollari, insomma proprio male non è andato. E allora ecco la domanda per voi. Dovete dirci i nomi dei personaggi e dei film di altri due maggiordomi mitici, storici, noti della storia del cinema. Altri due maggiordomi cinematografici. Basta che ci scriviate il titolo del film in cui li ricordate e il personaggio. Mi raccomando però, inserite, questo sarà fondamentale, nell'SMS al nostro numero, il 349-238-6666, anche il vostro indirizzo, perché siamo sotto le feste. Per spedirvi i biglietti e permettervi di andare al cinema a vedere The Butler bisogna che ci sbrighiamo. Quindi ecco, vostro indirizzo, nome di due maggiordomi della storia del cinema al 349-238-6666. E adesso viabilità, fra poco torniamo insieme con quello che è il film sicuramente più importante di questo periodo a cavallo della fine e dell'inizio del nuovo anno, ovvero American Hustle. Eccoci ancora qui alla Rosa Purpurea, c'è un altro film di cui parlare, anche questo, data di uscita 1 gennaio, ma ve ne parliamo in anteprima perché dovete prepararvi ad andarlo a vedere. Questo è uno di quei film obbligatori, insomma, che bisogna davvero vedere. Secondo me lo ritroveremo grande protagonista anche nella notte degli Oscar. Stiamo parlando di American Hustle, l'apparenza inganna, di David O. Russell, che in poco tempo è diventato uno dei registi davvero da seguire del panorama hollywoodiano. Pensate al lato positivo, tanto per citare l'ultima sua fatica. Davanti all'obiettivo ci sono invece poker d'assi, Christian Bale, straordinario, Amy Adams, bellissima, Bradley Cooper, che funziona sempre, e Jennifer Lawrence, che ormai ha la versatilità fatta attrice, a cui si affianca per esempio Jeremy Renner. Un film che racconta, associa il clima delle grandi inchieste FBI, qui un po' di quel cinema di impegno civile americano, ha un'ironia di fondo che lo pregna proprio in tutti i suoi pori e che riecheggia in una sceneggiatura veramente super blindata e scritta in maniera straordinaria. E allora, anche in questo caso, andiamo ad ascoltare la prima clip di American Hustle, poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Credo che dovresti trattare il prossimo come vorresti che trattasse te, non l'ha detto anche Gesù? Sì, certo. Inoltre, accetta sempre un favore al posto dei soldi. Credo che Gesù abbia detto anche questo, ma non so se ha detto la seconda, forse ha detto la prima. Tutti pensavano, oh, Ricci Rimaso resterà in ufficio, ma io lavoro sul campo, ho gente che lavora per me. Mie sono le idee, io dirigo l'operazione, io sono il quarterback e non me ne sto seduto. It's not for me to say. Non era assolutamente in forma. Portava una pettinatura con il riporto che era piuttosto elaborata. E aveva una sicurezza che mi attirava come una calamita. Mio padre mi ha insegnato a credere che tutti sono buoni e che devo essere buono con tutti. La vita è ridicola. E tu sai che non direi mai niente di male su tuo padre davanti a te, ma tuo padre è un gran figlio di puttana. Papà è un gran figlio di puttana. Non lo ripetere. Comunque sì. straordinaria Jennifer Lawrence, madre un po' sui generis in questa clip. Storia, dicevamo, di un'operazione tra l'altro veramente portata a termine, almeno che ha ispirato il film, dall'FBI alla fine degli anni 70, l'operazione Abscam, per indagare e prendere un po' con le mani nel sacco i protagonisti di una corruzione dilagante nel Congresso americano e in altre organizzazioni governative. Boris, dicevo prima, ci sono un po' tutti gli ingredienti di quel cinema che piace, i grandi attori, la spy story se vogliamo, e poi anche una trovata geniale secondo me, che qui il vero figo è Christian Bale, che è tutt'altro che figo sullo schermo in questo film, perché appunto avete sentito anche nella clip questo riporto astrale da una parte all'altra della calotta cranica, e invece Bradley Cooper, che sarebbe il figo, è quello un po' sfigato. No, guarda, devo dire che secondo me questo film in qualche modo ci dice che ricorderemo David Russell fra 20 anni, fra 30 anni, come adesso parliamo di Francis Ford Coppola e Martin Scorsese. Mi rendo conto che è forte come affermazione, ma dopo tanti bei film, dopo questa capacità che ha di lavorare con gli attori, tra l'altro qui ha tutti gli attori con cui aveva già lavorato, e si sente, si vede che sono una squadra affiatatissima, non si può più negare che siamo di fronte a un regista di livello altissimo. Qui si mette alla prova con una storia che per una volta non va a pescare nell'intimo di una famiglia, nell'intimo di una sfera personale, ma che coinvolge anche la politica, che coinvolge la collettività. Anche se a dire il vero poi Russell si dimostra molto più interessato alle dinamiche più piccole, cioè il fatto che è interessato al rapporto tra finzione e verità, e infatti riprende alla grande i momenti di rara verità che c'è in questa storia, onestamente, ha piccoli ruoli come quelli di Jennifer Lawrence, che però sono straordinari. Hai ragione tu a dire che Christian Bale e Amy Adams sono straordinari. Devo dire straordinaria anche la parrucca di Jeremy Renner, che a cui è affidato il coté grottesco di questo film, giocato benissimo. È un film che ha un equilibrio perfetto nella scrittura visiva e nella scrittura narrativa. Ha un regista straordinario, ha degli attori straordinari. Faccio fatica a pensare che un film che pur esce nel 1 gennaio 2014 potrà essere superato da molti altri in questo anno, perché è davvero un film straordinario. Oh, ragazzi, andiamo fuori, è più bello. Andiamo. Duke Ellington sul braccialetto? Sì, esattamente, è proprio lui. È morto quest'anno, sai? Lo so. Dubito che qualcun altro qui lo sappia o gli importi. Beh, a me importa, mi ha salvato la vita più di una volta. A me anche. Quale pezzo? Gyps Blues. Gyps Blues? Gyps Blues. Ah, sì? Sì. Allora, lo vuoi sentire? Adesso? Sì. Certo. E allora questo era il film della settimana, senza dubbio, American Hustle. Vi ricordo 7 nomination ai Golden Globe, e quelle agli Oscar devono ancora arrivare, e tra l'altro nel cast anche Robert De Niro, boss della mafia, veramente molto molto azzeccato. Allora, giochiamo insieme, perché è arrivato il momento di sentire la seconda clip del nostro game di oggi. Avremmo dovuto prendere un taxi pubblico. Attenzione! Calma, se non sapessimo guidare, non avremmo la licenza. Non hanno gli occhi. E allora, la rosa purpurea @radio24.it, in che film ci sono queste guidatrici senza occhi di un taxi, insomma, abbastanza surreale la situazione. Scriveteci l'indirizzo vostro e il titolo del film, ovviamente, alla rosa purpurea @radio24.it, per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che vi sveleremo la prossima settimana. Peraltro devo dire che in questo periodo di vacanza il nostro ufficio spedizione lezioni va in vacanza a sua volta, meritatamente, che quindi noi non annunceremo i nomi, ma verrete contattati ovviamente appena possibile dal nostro ufficio che si occupa di spedirvi i DVD e i Blu-ray. A questo punto però io vi faccio sentire una clip con la quale avevamo giocato 7 giorni fa. Ehi, forti i tatuaggi, bello. Oh sì, grazie fratello, sì. Hai visto il cobra? E quello cos'è, quello sul petto? Oh, questo? Questo è il mio credo, niente rimpianti. Capisco, non hai rimpianti? Papà. No. Nemmeno una singola lettera? No? Nemmeno, non è da me. Papà. E si trattava di Come ti spaccio la famiglia, una commedia uscita durante questa stagione cinematografica, commedia sempre piuttosto acida, volgarotta, ma piuttosto divertente. I due nostri ascoltatori che l'hanno indovinata per primi e che quindi riceveranno il Blu-ray sono Tommaso Bendinelli di Monza e Veronica Tomat di Faenza. Saranno loro appunto a ricevere il Blu-ray di questo film, di cui parliamo con gli amici del settimanale Film TV, e con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Sì, arriva in Blu-ray Warner Come ti spaccio la famiglia, disavventura di uno spacciatore squattrinato che si riscopre commedia familiare, con la regina del brillante romantico Jennifer Aniston e il comico Jason Sudeikis del Saturday Night Live. Un buon riversamento per questa commedia, un discreto numero di extra, 8 scene eliminate, una serie di gaffe, approfondimenti sui personaggi e 2 brevi e divertentissime clip. E allora, questo era il nostro gioco della scorsa settimana, e invece quanto alla consueta spulciata dei palinsesti televisivi della prossima settimana per segnalarvi qualche film, sarà il clima natalizio, saranno le feste, insieme agli amici di Film TV abbiamo deciso di puntare Disney questo weekend. Settimana prossima ci sono veramente tante proposte che vanno da classici del passato come gli Aristogatti a piccoli capolavori recenti come Ratatouille oppure Up. Sì, una vera buffata di animazione, si parte con domenica 29 su Rai 2 alle 19 con Up, poi martedì 31 su Rai 2 alle 23 gli Aristogatti, mercoledì 1 su Rai 1 alle 21.10, quindi in prima serata la carica dei 101, e poi venerdì 3 su Rai 2 alle 21.10 Ratatouille. Quindi la Rai propone una selezione doc di film d'animazione Disney, l'incontro generazionale Viaggio nella pura meraviglia Up, firmato Pixar, il classico Felino al tempo di Jazz e gli Aristogatti, la lettura La lotta della carica dei 101 contro Crudelia Demon, e infine il topolino gastronomo di Ratatouille per festeggiare la fine del 2013 e l'inizio del 2014 in famiglia, non alzandosi dal divano con la scusa di far divertire i più piccini. Insomma, state attenti ai palinsesti TV, ma insomma c'è tanta animazione Disney in questi giorni. Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra puntata, non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di Capodanno, ve lo ricordo ancora, il 1 gennaio alle 17 qui su Radio 24, un'ora insieme per parlare di tutto il cinema che verrà nel 2014 insieme all'amica e collega Luisa Morandini. E invece, tradizionale puntata del sabato alle 16 la prossima settimana con le novità in sala. Grazie a Margherita Ina che ci ha assistito in redazione, a Fabio Cantadori qui in regia, un saluto e un buon anno ovviamente, perché siamo arrivati all'ultima puntata di questo 2013 da Franco D'Assisi.